2024 di Enrico Pagliarini. Una nuova puntata di 2024 inizia. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Paolo Corleoni, che è il nostro tecnico. Sentirete tutto quello che va in onda digitato da Paolo Corleoni, organizzato da Paolo Corleoni. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it, ma preferiamo, come sempre, visto che siamo in diretta, sentire la vostra voce. Chiamateci al nostro numero verde 824 0024. Questo è il programma dedicato alla tecnologia di Radio 24, come la tecnologia ci cambia la vita. Visto che oggi parleremo di sicurezza, un tempo si diceva sicurezza informatica, oggi possiamo definirla sicurezza digitale, un tema vastissimo. Cercheremo di parlare di quella nostra personale quando siamo su internet, sia davanti al computer, sia quando utilizziamo smartphone e tablet. Dicevo, visto che parleremo di questo, sarà interessante sentire anche il vostro parere. Partiamo proprio da un evento che è legato in qualche modo alla sicurezza, perché il sito internet della CIA, che dovrebbe essere piuttosto sicuro e protetto, è stato bloccato da un attacco di tipo, dicono gli esperti, denial of service, dai soliti Anonymous. E a questo punto uno dovrebbe chiedersi: ma chi è Anonymous, se esiste un'unica entità? Attacchi di questo tipo sono molto semplici: tanti computer tentano di collegarsi contemporaneamente al sito, che però non riesce a gestire così tante richieste e va in tilt. Anche di questo parleremo magari più tardi, di cybercrime, di guerra digitale, che è un aspetto della security. A proposito di proteste in rete, metteremo poi un link anche sulla nostra pagina Facebook, proteste che sono sia virtuali ma anche reali. Vi segnalo che in tutta Europa oggi sono state programmate un centinaio, pensate, di eventi di protesta contro l'ACTA, che è un trattato internazionale, ne abbiamo parlato un paio di settimane fa, per la tutela della proprietà intellettuale. È stato promosso però all'esterno degli enti governativi, è stato proposto poi ai governi, è stato firmato anche da molti stati dell'Unione Europea, Italia compresa. Però dopo che Polonia e Repubblica Ceca hanno avuto qualche dubbio, anche il governo tedesco ha deciso di sospendere per il momento la firma di questo trattato. E visto che il tutto dovrà essere poi recepito dal Parlamento Europeo entro giugno, i dubbi di Berlino potrebbero avere un certo peso. Questo è un argomento interessante da approfondire in rete, ve lo segnaliamo. Adesso cambiamo argomento, parliamo di pagamenti. Il Politecnico di Milano ha diffuso questa settimana i dati sul mondo dei pagamenti via cellulare, il cosiddetto mobile payment, che sarà uno dei settori in forte espansione nei prossimi anni. Ci sono fondamentalmente due modalità per pagare in mobilità. La prima è già diffusa e viene chiamato dai tecnici mobile remote payment, cioè pagamento a distanza, dove lo smartphone, con lo smartphone facciamo sostanzialmente quello che è possibile fare su un computer collegato ad internet. Uso i dati della mia carta di credito o di un'altra carta e pago un prodotto o un servizio. L'altro sistema è il cosiddetto mobile proximity payment, cioè un pagamento di prossimità dove, grazie ad un chip con tecnologia NFC, di cui abbiamo parlato più volte nel 2024, che è contenuto in una carta, o meglio annegato all'interno del cellulare, tutto ciò mi permette di fare il pagamento solamente avvicinando il cellulare ad un POS. Oggi il POS è quello che utilizziamo con il bancomat, ma questi POS devono essere abilitati allo scopo. Ma in generale, quanti usano in Italia i pagamenti via cellulare? Quanto fattura il settore? Ne abbiamo parlato con il professor Alessandro Perego, che è coordinatore scientifico dell'Osservatorio sul Mobile Payment del Politecnico di Milano. Allora, intanto, se consideriamo come pagamento in mobilità anche dei fenomeni tipo le donazioni attraverso SMS o il pagamento delle ricariche telefoniche, gli italiani che dichiarano di aver fatto almeno una volta nella loro vita un pagamento in mobilità sono tanti, sono circa 23 milioni. Dopodiché, se guardiamo il valore però del transato attraverso questo strumento, il valore non è elevatissimo, per ora siamo sui 700 milioni di euro, prevalentemente pagamenti in mobilità a distanza, quello che noi chiamiamo mobile remote payment. Tutto da sviluppare ancora invece il mondo del mobile proximity payment, che da adesso penso che chiameremo pagamenti di prossimità. Per quanto riguarda, diciamo, i pagamenti che hanno generato questi 700 milioni di fatturato, che tipo di pagamenti sono, ma soprattutto per che cosa? Abbiamo detto le donazioni, quindi qua abbiamo capito SMS e si paga con il credito telefonico. Che cos'altro? Allora, a dire il vero, la maggior parte di questi 700 milioni, circa 500 milioni, sono acquisto o pagamento di contenuti digitali fruiti poi direttamente sul cellulare, contenuti digitali, immaginiamo da luoghi suonerie, quindi personalizzazioni in qualche modo del cellulare, contenuti informativi di varia natura, giochi. Ecco, contenuti digitali in senso lato, questi valgono per circa 500 milioni. I restanti 200 milioni sono circa 100 milioni, sono ricariche telefoniche, 80 milioni sono acquisti o pagamenti di prodotti o servizi, quello che chiamiamo mobile commerce di prodotti e servizi, e appunto, come dicevo, un pochino sono anche donazioni. Quindi siamo ancora, diciamo, in una fase piuttosto arretrata. Ma diciamo che la parte componente di mobile commerce e pagamento di contenuti digitali in realtà è un mercato già fortemente in evoluzione da diversi anni. Sulla parte invece di mobile commerce, di prodotti e servizi, questo invece è un mercato, diciamo così, ancora embrionale, ma in forte espansione. Quest'anno vale 80 milioni, dicevo, cioè quest'anno intendiamo il 2011, vale 80 milioni di euro, nel 2010 era circa una ventina di milioni di euro, quindi è un mercato che sta crescendo molto significativamente. Ad oggi rappresenta solo l'1% rispetto all'e-commerce. Però in altri paesi tipo gli Stati Uniti o in Inghilterra rappresenta già il 7-8% dell'e-commerce, e questo quindi è un trend che ci aspettiamo accada anche in Italia nei prossimi anni. Guardando alla situazione attuale possiamo dire che i pagamenti a distanza, cioè quelli che sostituiscono di fatto quello che già possiamo fare sul nostro computer, sono un settore grosso modo affermato maturo, mentre quelli di prossimità basati sul chip NFC non esistono quasi praticamente. Beh sì, possiamo dire questo, nel senso che per quanto concerne i pagamenti a distanza, diciamo, l'offerta è già esistente, ci sono moltissimi esempi che hanno già dimostrato che si può fare e che c'è anche del vantaggio sia per, diciamo così, gli esercenti che scelgono di aggiungere questo nuovo canale che per i consumatori che lo utilizzano, questo sia nel mondo che in Italia. Esistono un centinaio di servizi che noi abbiamo censito all'interno della nostra ricerca che, come dicevo prima, spaziano sia nel mondo del trasporto pubblico locale, nel mondo del pagamento della sosta, nell'acquisto di prodotti e servizi di varia natura. Un ambito molto interessante qui, ad esempio, è l'acquisto nel contesto, nelle situazioni in cui è importante usare bene il tempo, la leva tempo, per esempio la partecipazione a un'asta su eBay, ad esempio, oppure l'acquisto di abbigliamento all'interno di quelle iniziative che prevedono delle offerte che hanno una durata limitata nel tempo. Quindi nel mondo del pagamento a distanza, diciamo che l'offerta è chiaramente esistente, i vantaggi sono chiaramente dimostrati. Per quanto concerne invece il pagamento di prossimità, in questo caso il percorso da fare, almeno in Italia, è ancora abbastanza lungo. Ecco, diciamoci, ci vorranno, secondo noi, un paio d'anni di lavoro significativo per arrivare a iniziare ad avere dei numeri estremamente interessanti. Ecco, invece nel resto del mondo siamo più avanti da questo punto di vista. Ci sono delle nazioni come il Giappone o la Corea del Sud dove questo tipo di modalità di pagamento è già significativamente diffuso. In altri paesi europei ci sono già delle sperimentazioni interessanti, in Francia, in Spagna ad esempio, anche in Austria, insomma in Inghilterra è partita una joint venture di operatori di telecomunicazioni che promette a breve di ottenere dei risultati, insomma in altri paesi europei c'è un po' più di sperimentazione di quanto non stiamo vedendo in Italia. Devo anche dire però che gli operatori che abbiamo incontrato nel recente convegno che abbiamo fatto hanno tutti dimostrato un forte interesse e una forte determinazione a iniziare anche in Italia un serio processo di introduzione di questa tecnologia. Tra questi 100 sistemi di pagamento che voi avete, queste esperienze che voi avete analizzato, che cosa vi ha colpito di più? Giusto per fare anche qualche esempio di come è possibile implementare un sistema di pagamento via cellulare. Ma diciamo che per quanto concerne ad esempio il mobile commerce di prodotti o servizi, la cosa interessante è che i principali operatori che hanno introdotto questo nuovo canale dichiarano che sono realmente cambiate le abitudini e i comportamenti di acquisto delle persone. Un caso molto interessante è quello per l'appunto degli operatori che vendono attraverso il modello dei club online abbigliamento tipicamente alta moda a prezzi molto scontati. Ecco, operatori di questo genere dicono di avere esteso enormemente la finestra durante la quale nella giornata ricevono ordini, di averla spostata in momenti particolari, per esempio nei classici momenti di viaggio del pendolare, quindi nella fascia 7-9 del mattino o nella fascia serale circa tra le 7 e le 8. Questo significa che le persone mentre viaggiano, soprattutto il pubblico, diciamo così, l'audience femminile, dedica il tempo del viaggio a fare sostanzialmente acquisti. Questa è un'esperienza interessante e curiosa. Un altro mondo molto interessante è quello del pagamento del trasporto pubblico locale. In quel caso le esperienze dimostrano che è estremamente importante che l'esercente, quindi in questo caso l'operatore di trasporto pubblico locale, progetti un servizio realmente semplice, perché questo è un sistema che funziona molto bene per il pagamento di singoli biglietti di trasporto pubblico locale, e nel contempo ne dia un'adeguata comunicazione. Le iniziative che funzionano sono iniziative in cui l'esercente ci crede e non dichiara una volta di aver lanciato il servizio, ma imposta una campagna di comunicazione seria e continuativa. Tra i servizi che voi avete analizzato dove viene utilizzato lo strumento carta di credito o altro tipo di carta, ogni volta che viene effettuato il pagamento devo inserire le credenziali o oramai i servizi prevedono che una volta data la prima volta la carta, cioè le credenziali, io possa pagare senza problemi? Questo è uno dei principali elementi di semplificazione di cui parlavamo prima. È chiaro che il dover reintrodurre tutte le volte il PIN, ad esempio, è un elemento deterrente per pagamenti di piccolo importo. Quindi in realtà la maggior parte dei servizi più evoluti va nella logica di cercare di evitare che ci sia un continuo reinserimento di dati relativi alle credenziali dell'utente. È chiaro che sì, che c'è un trade-off tra sicurezza da questo punto di vista e semplicità, però per micropagamenti questo tipo di compromesso tende a spostarsi verso la semplicità. Chiarissimo. Un'ultima domanda a proposito di freni alla diffusione di questi sistemi, e in generale questo vale per tutti i sistemi di pagamento elettronico. Molti esercenti si lamentano quando ricevono pagamenti elettronici perché devono pagare la commissione, e naturalmente se io invece do 10 euro di carta non devono pagare alcuna commissione a nessuno. Da questo punto di vista notate che qualche cosa stia cambiando o molto lentamente? Allora, ci sono due considerazioni da fare. La prima è che la gestione del contante è costosa di per sé, anche se i costi non sono magari evidenti o calcolati nel dettaglio. Noi in realtà li abbiamo calcolati per diverse tipologie di esercenti, per cui esistono fasce di esercenti in cui il costo di gestione del contante può essere di molti punti percentuali rispetto al fatturato e quindi superiori alle commissioni che si pagano per i pagamenti elettronici. Questo è un primo elemento che va considerato. La gestione del contante non è gratis. Sì, però diciamo questo vale forse per i grandi esercenti che devono magari spostare anche con dei camion sicuri i soldi. Per un piccolo negozio. Sicuramente per i grandi esercenti. Però immaginate qualcuno che gestisce una vending machine, un sistema di vending machine, quindi di quelle macchine automatiche, distributori automatici. Sì. Per soggetti di quel genere il costo di gestione del contante può sommare a un 15% circa del transato, quindi un valore estremamente significativo. Comunque questa è una prima considerazione. Una seconda è che è abbastanza evidente che nel momento in cui si introduca in modo massivo un modello di pagamento elettronico attraverso il mobile che tende a voler includere anche i micropagamenti, il modello delle transazioni verso gli istituti di pagamento e i circuiti deve un po' cambiare. Noi ci aspettiamo quindi che le transazioni, le commissioni sulle transazioni vengano in prospettiva riviste in modo da rendere interessante questo modello sia per gli esercenti che per l'ecosistema nel suo complesso, quindi che ci sia la disponibilità, e noi vediamo che questa disponibilità ci può essere per rivedere il modello delle commissioni. Era il professor Alessandro Perego che coordina, il coordinatore scientifico dell'osservatorio sui pagamenti elettronici del Politecnico di Milano, precisamente la School of Management del Politecnico di Milano. Pensare che abbiamo così tanti cellulari che ancora fatichiamo a crescere in questo mercato dei pagamenti via mobile. Pensatelo in termini più generali, pensando ai pagamenti elettronici, quali potrebbero essere i vantaggi in termini di sicurezza, visto che di security oggi parleremo. Se ci fosse una forte spinta verso la moneta elettronica digitale, ci sarebbe anche una corrispondente diminuzione di furti e rapine, e magari crescerebbero quelle digitali, ma anche di questo parleremo tra poco, 2024. 2024. Metteremo una versione più lunga rispetto a quella che abbiamo ascoltato dell'intervista che abbiamo realizzato con il professor Perego per parlare di pagamenti elettronici. Oggi abbiamo molte cose che vi vogliamo fare ascoltare e molte in versione originale, quindi più ampia. Le ascolterete nella versione podcast che sarà disponibile entro le 18.30 sul nostro sito internet. Adesso parliamo di Sky, che ha iniziato questa settimana ad aggiornare via etere, cioè via satellite, 1,5 milioni di decoder MySky HD. L'aggiornamento è automatico, il download del nuovo software viene scaricato senza che l'utente debba fare nulla. Oltre ad essere una nuova interfaccia per utilizzare i menu, le funzionalità dei servizi interattivi di Sky, la cosa interessante è che con questo aggiornamento viene abilitata la porta di rete del decoder, e questo significa che Sky si prepara ad entrare nel video on demand, quindi il video noleggio su internet. Nicola Brandolese, responsabile marketing e vendite di Sky. È una rivoluzione perché questo nuovo software scaricato sui decoder MySky HD abilita la porta Ethernet del decoder, e questo a breve, nei prossimi mesi, consentirà anche di amplificare le funzionalità di video on demand che già oggi Sky fornisce ai clienti. Oggi l'on demand si basa prevalentemente sulla capacità del disco fisso, quindi del decoder, di ricevere i contenuti, quindi di fornire al cliente l'accesso a questi contenuti archiviati sul disco fisso. Questo nuovo software permetterà invece all'utente di accedere ai contenuti archiviati su un disco remoto, quindi sarà un video on demand molto più potente, con la possibilità per il cliente di visionare migliaia di contenuti, non solo quelli residenti sul proprio disco fisso. L'offerta di video on demand di Sky sarà basata sul decoder, naturalmente, ma non è escluso che possa arrivare in futuro anche un'offerta solo su internet. Questa è una mossa interessante ed è questo che ci interessa, un segnale che qualche cosa si sta muovendo e che nei prossimi mesi vedremo altre novità. Per ora i servizi di video noleggio su internet esistono anche in Italia, ma l'offerta è molto scarsa, il catalogo più ampio di circa 1 migliaio di film, quindi nulla di particolarmente ghiotto e interessante. Voi dite ci stiamo preparando al futuro perché con questo upgrade software si abilita la porta Ethernet, quindi vuol dire che ci si apre ad internet, e questo creerà la possibilità a tutti i clienti che hanno questo decoder, quindi che sono abbonati a Sky con il MySky HD, di vedere film su richiesta, cioè il vero e proprio on demand. L'esperienza quale sarà? Crediamo straordinaria, perché come già oggi l'on demand che offriamo oggi permette poi all'utente di vedere i propri contenuti quando vuole lui e non quando decide la televisione, l'emittente, il broadcaster. Con l'on demand per definizione decide il cliente quando vedere e che cosa vedere. L'Italia ovviamente soffre di un po' di problemi di infrastrutture e di connettività, magari non sempre qualitativa, non tutti sono raggiunti da una banda larga sufficientemente larga. E la nostra tecnologia permette di risolvere anche questo problema, per cui anche quando si andrà sull'on demand vero, quindi con l'accesso tramite broadband di contenuti in remoto, la tecnologia del decoder permette di fare quello che tecnicamente si chiama progressive download, quindi l'accesso al contenuto remoto verrà gestito in maniera intelligente dalla macchina, dal decoder, che per i primi minuti archivia sul proprio disco fisso il contenuto che si sta scaricando dal disco remoto, in maniera tale che anche in presenza di una banda non del tutto stabile, non del tutto robusta, permetta dopo i primi minuti di scarico del contenuto all'utente di accedere e di vedere il contenuto esattamente come se fosse trasmesso dalla televisione lineare. Altre notizie della settimana. Digital News. A proposito di videonoleggio online, di servizi online, Netflix e Hulu, con la H, che sono due grandi aziende americane, stanno per lanciare le prime serie televisive realizzate in esclusiva per il web. In questo modo le due società cercano di creare una propria offerta, tutelandosi anche da un possibile blocco del mercato degli show televisivi. YouTube lancerà presto 100 canali tematici solo per internet. In tutti i casi stiamo parlando, ai noi, di programmi disponibili solo sul mercato americano. Google si prepara a lanciare entro la fine del 2012 un sistema di intrattenimento domestico basato sul sistema operativo Android, capace di trasmettere in streaming musica scaricata da internet sfruttando Google Music. C'è chi dice che Google voglia copiare la strategia di Apple e quindi entrare nel mercato degli apparecchi di elettronica di consumo, quelli fisici, marchiati Google. Altre voci di corridoio, a conferma di questa strategia, dicono che l'azienda potrebbe aprire presto il suo primo negozio a Berlino. Apple dovrebbe presentare e lanciare in marzo il nuovo iPad 3 con Retina Display e quindi con una risoluzione 4 volte superiore a quella dell'attuale iPad. Questa dovrebbe essere la novità più interessante del nuovo prodotto. La Kodak abbandonerà fra pochi mesi il settore delle fotocamere digitali e tenterà di dare in licenza il marchio per questo tipo di prodotti. Per ora non sono a rischio le pellicole per il settore cinematografico, segmento che vale, pensate, circa il 75% del fatturato della Kodak, che è in grave difficoltà, sapete. Regione Lombardia e Metroweb hanno firmato un accordo per lo sviluppo della rete in fibra ottica nel territorio regionale, partendo da Brescia e Bergamo. Entro i prossimi 6 mesi verrà studiato un piano industriale per creare una partnership pubblico-privata. Questa è solo una delle azioni che la regione sta facendo per diffondere internet, ma non stiamo parlando di tempi rapidissimi, quindi avremo tempo per riparlarne a 2024. Quest'ultima non era, diciamo, una grandissima e importantissima notizia, però è importante tenersi aggiornati su quello che sta succedendo, perché qualche cosa, seppur molto lentamente nella diffusione della rete a proposito di infrastruttura internet, sta accadendo. Quindi dai grandi progetti di cui si parlava un po' di tempo fa si è passati a progetti molto più limitati anche economicamente, ma qualche cosa si sta lentamente facendo. Sapete che oggi parliamo di sicurezza, allora vorrei presentarvi l'ospite di oggi, che è Gigi Tagliapietra, che è presidente del Clusit. Benvenuto Gigi. Buongiorno a tutti voi. Allora, il Clusit è un'associazione che si occupa di sicurezza informatica, giusto? Bah sì, diciamo che il nostro compito è quello di far crescere innanzitutto la cultura, la conoscenza dei temi legati alla sicurezza informatica. E diciamo che la caratteristica è quella di riunire in un'unica organizzazione sia utenti che fornitori, abbiamo le università, abbiamo enti tutti, governativi, insomma, tutti singoli colori... cittadini, ecco singoli cittadini possono associarsi. Senti, perché ancora oggi noi dobbiamo preoccuparci della nostra sicurezza online? Uno potrebbe pensare, passato tanto tempo da quando esistono i computer, le reti internet, eccetera, che questo dovrebbe forse essere non più un problema. Invece oggi noi ci dedichiamo a una trasmissione, ma devo dire che l'argomento è così vasto, complicato, complesso e variegato che noi potremmo parlare un'ora al giorno di questi assolutamente temi. Assolutamente sì, io sono quasi 30 anni che mi occupo di questa cosa, ogni tanto mi domando se non ho sbagliato qualcosa, visto che dobbiamo ancora parlarne. Ma in realtà il tema è che l'informazione e l'informatica fa parte della nostra vita e quindi ha assunto tutte le complessità della nostra vita. Per cui se una volta il problema era che i computer servivano solo a fare i calcoli, basta pensare al termine calcolatore. Oggi ascoltiamo musica, facciamo le fotografie. Se non lo usiamo nemmeno più questo termine. Appunto. Però non mi hai risposto, cioè perché ci dobbiamo ancora preoccupare? Ma lo faremo nella seconda parte. 2024. La seconda parte di 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia, il nostro numero verde per chiamarci oggi per parlare di security, di sicurezza informatica sul computer, ma anche sullo smartphone o sul tablet. Numero verde è 800 24 00 24. Io sono Enrico Pagliarini e con noi Gigi Tagliapietra, che è il presidente del CLUSIT, l'associazione per la sicurezza informatica. Dunque Gigi, ti chiedevo poco fa, insomma, perché ancora oggi noi ci dobbiamo occupare di sicurezza? Perché non è possibile avere dei sistemi, una rete fatta in modo che sia sicura? Notizie di tutti i giorni ci raccontano di piccoli o grandi crimini realizzati in rete, perché ci sono oramai delle organizzazioni criminali, delle forme di protesta online che in qualche modo mettono anche a rischio i grandi o i piccoli siti, il mio computer. Ma pensa, forse il tuo no, però. Ma sì. Pensa al mondo dell'automobile. È più di 100 anni ormai che esistono le automobili e quanti morti ci sono. Solo in Italia credo siano 8.000 all'anno. Questo vuol dire che non è che la crescita della tecnologia automaticamente ci rende immuni dal pericolo. Le auto oggi sono più sicure di quelle di una volta, senza dubbio. Le strade sono migliori, certamente. Però noi non possiamo dare per scontato che la tecnologia sia intrinsecamente sicura. È solo tenendo sveglia la nostra attenzione. I computer di oggi sono molto più sicuri di quelli di una volta, ma pensate, con solo 800 milioni di utenti su Facebook, come si fa a pensare che la tecnologia sia è intrinsecamente sicura? Questa cosa non è possibile. Siamo noi che dobbiamo essere più pronti e più adatti a capire la modernità e a conviverci. Beh, io spero sempre che prima o poi a partire dalla rete venga realizzato un ecosistema molto più sicuro, dove noi dobbiamo dimenticarci di queste cose, perché oggi ancora dobbiamo preoccuparci di tante cose. Infatti questa è una cosa che mi sembra sia cambiata poco negli ultimi 12-13 anni. Tieni conto che 2024 è nata quando è nata Radio 24 e noi dal primo giorno, dal 1999, abbiamo cominciato a dire è più importante il comportamento rispetto agli strumenti tecnologici. Ed è ancora così. Assolutamente sì. Io ho fatto parte anche di gruppi di lavoro europei, per cui non è che poi si dica ah, ma l'Italia è così, no. Ho fatto parte del gruppo di studio che ha fatto i commenti dopo l'attacco all'Estonia, che è uno dei paesi europei più avanzati, più tecnologicamente avanzati. Quello che stiamo dicendo a livello europeo è proprio questo, che una risposta tecnologica non esiste, come non esiste una risposta puramente farmacologica al problema delle malattie. Certo. Sì. Senti, in casa mia come faccio però a essere un po' più sicuro? Ma intanto una prima cosa è quella di fare le copie dei dati, perché la gente tende a pensare che i computer non si rompano mai, perché sono una tecnologia magica e il vero valore non è il computer, è i dati che contiene. Così pure il telefonino, se vi fregano semplicemente il telefonino, vi accorgete quanto valeva la rubrica con tutti sì, i compleanni. Quindi, questa è la prima cosa, fare il backup. Il backup. Prima cosa. Che uno dice, beh, dovrebbe essere scontato. No, c'è un dato interessantissimo dei negozi di riparazione di telefonini che vengono sostituiti per i guasti. La maggior parte non ha mai fatto un aggiornamento software. Seconda informazione, tenete aggiornato il software, perché ogni volta che viene trovato una possibile falla o una debolezza, le case produttrici provvedono a dare gli aggiornamenti, quindi fate gli aggiornamenti. Terzo, le password. Le password vanno usate. Anche in casa, io chiedo a molti, ma voi usate la chiave per chiudere la cantina, per chiudere il garage? Sì, e allora perché, santo cielo, abbandonate tutte le cose che saggiamente fate quando vi sedete davanti a un computer? Questo, diciamo, è proprio il tormentone che stiamo utilizzando a tutti i livelli, dire... Intanto cominciamo a usare regole di assoluto buonsenso che applichiamo nella vita normale, applichiamole alla nostra vita quotidiana digitale. Questa settimana è stato rubato un computer, pare anche abbastanza importante, al comune di Milano. Quindi tu dici, se quel computer non ha la password, beh, è molto facile il mestiere del ladro. Se ha la password, non è detto che non riesca ad entrare, però è più complicato. Cioè è come l'antifurto sulla macchina. È chiaro che un ladro cattivo, tra virgolette, la macchina me la frega. Cioè, ecco, allora, di fronte ai ladri cattivi? Di fronte ai ladri cattivi esiste intanto il fatto di... come dire, di dare grande rispetto ai dati, per cui addirittura in Italia per legge le informazioni confidenziali, se parlo di un ambito professionale, vanno criptate e protette. Il solo fatto di utilizzare una password, esistono sistemi operativi che fanno la cifratura automatica, non devo fare niente, la devo però abilitare, sapere di utilizzarla, proprio perché può accadere. Esistono oggi sistemi che permettono addirittura di rintracciare attraverso la rete un telefonino rubato piuttosto che un portatile rubato. È ovvio che devo attivare queste funzioni. Se il mio unico problema è quello di avere fretta, rischio. Adesso ti faccio una provocazione. C'è chi dice, guardate che gli hacker, quelli cattivi, perché c'è anche l'hacker buono, certo. Cioè il malicious hacker, sì. Sono interessati a dati di un certo valore. E nella maggior parte dei computer ci sono dei dati di poco valore, quindi state tranquilli perché nessuno vi viene a disturbare e nessuno entrerà mai nel vostro computer. Ma sì, questa era... Sei d'accordo? No, assolutamente, nel senso che la maggior parte così la leggenda metropolitana era che siccome non faccio transazioni economiche, io non uso la carta di credito e i miei dati non interessano. Intanto c'è un primo fatto che valgono i dati in quanto tale, vale il mio profilo personale, vale sapere che cosa compro, cosa mi piace e cosa non mi piace. Ma soprattutto vale il fatto che la mia macchina, se è vulnerabile, viene usata da altri per fare attacchi. È come dire, io non ho niente da nascondere, però se nel mio garage mettono della refurtiva o una partita di cocaina o dalla mia camera da letto usano la mia casa per sparare a qualcun altro, è quello che avviene con gli attacchi di massa, e a quel punto io ho un grande problema a discolparmi, a sì. Dimostrare che non c'entro. L'ho detto all'inizio, il sito della CIA americana è stato messo KO da questo attacco di certo, tipo, lo dico così, di Anonymous. Esatto, di Anonymous. Poi mi facevo anche la domanda, ma chi è Anonymous? Perché adesso tutte le volte che c'è un attacco qualcuno spara su Anonymous, ma Anonymous forse sono tante cose, sì, tante entità. Infatti. Beh. Senti, ne riparliamo dopo la viabilità, anche perché così entriamo più nello specifico anche del mondo mobile, che è un mondo che si sta espandendo molto velocemente. Vi ricordo il nostro numero verde per intervenire, tra poco sentiremo anche gli ascoltatori, 800 24 0024 oppure il nostro profilo Facebook. A tra poco. 2024. Prima di parlare di smartphone e di tablet, Gigi, volevo chiederti, con una buona password, ad esempio una persona su Facebook ci scrive password sufficientemente lunghe con caratteri misti, quindi non solo lettere ma anche numeri, magari sì, qualche simbolo per renderle un po' più complicate, e poi giustamente dice per ricordarle esistono anche software sia per PC che smartphone che ci aiutano a far questo, oltre all'utilizzo delle password, oltre ad aver copiato i dati e magari utilizzato un buon antivirus, poi ti chiedo qualcosa sì, anche sull'antivirus, siamo tranquilli o dobbiamo fare altre cose? Ma diciamo una cosa molto importante, visto la diffusione delle reti wireless, dei wifi, anche lì è di capire che la virtualizzazione della connessione è un problema, perché una volta i computer si attaccavano con dei cavi, adesso io devo sapere che se ho il wifi in casa, in giardino qualcuno potrebbe collegarsi alla mia rete, quindi assolutamente utilizzare e attivare le funzioni di cifratura del wifi domestico. Sì. Perché senti, un ascoltatore ci chiede, il firewall sì, serve? Allora intanto spieghiamo che cos'è il firewall. Ma il firewall tanto vuol dire muro tagliafuoco. Il muro tagliafuoco è quella porta che serve a contenere l'incendio in un garage. Cioè, per è un esempio, software o un pezzo di ferro? Diciamo che inizialmente era un pezzo di ferro e poi via via è diventato in realtà una funzione installata su un computer. Il firewall è quella quel programma sostanzialmente che, a cui tu puoi dire fai passare questo tipo di dati, non far passare questi altri. La cosa più importante, più semplice che fa è che maschera all'esterno il mio indirizzo, per cui di fuori non si sa qual è il mio esatto numero o il numero della mia macchina. Diciamo che è la cosa ormai più elementare da fare nelle reti domestiche. Quindi tu consigli di utilizzarlo? Assolutamente sì. Sono cose che costano, sì, diciamo, poco? Addirittura non costano niente. Tutti i router che danno i provider telefonici di fatto hanno funzioni di firewalling. Ah, ok. Quello che mi preme dire è, attenzione, che i firewall partivano da un concetto, che c'era un dentro e un fuori, che c'erano i buoni e i cattivi. Si usavano ai tempi miei le metafore del castello, il ponte, levatoio, no? Cioè qui i buoni e fuori tutti i cattivi. Quando abbiamo milioni di telefonini in giro, cioè il concetto di dentro e fuori diventa molto, molto più labile, e quindi va bene pensare al firewall in casa, ma io poi devo pensare che nel momento in cui esco con il mio portatile il dentro e fuori è molto più labile, sì, davvero. Sì. Senti, a proposito di comportamento, tu così chiacchierando mi hai fatto un esempio molto simpatico, che è quello del lecca-lecca. Ma sì, perché ripeto, una delle cose più straordinarie è che le persone in genere, la gran parte di tutti noi, compiamo gesti ragionevoli. Prima di entrare in un bar diamo un occhio per vedere chi c'è dentro, se non ci piace, se il nostro istinto. In rete no, entriamo in qualunque posto. Addirittura uno dei modi per infettare il computer è quello di usare le chiavi USB. Se tu installi un virus su una chiavetta USB e la parla del lecca-lecca. Sì, la lasci nei bagni dell'azienda, sei sicuro che qualcuno, come la vedi, dice: oh, che bello, una chiave USB. Va in scrivania e infila questa chiave nella sua macchina, ovviamente impestando la rete. E io dico sempre: ma possibile che voi facciate questa cosa, ma mai e poi mai prendereste un lecca-lecca usato? Cioè, mentre una chiave USB, solo perché, se poi volete essere proprio cattivi, scrivete ufficio del personale o nuovi aumenti e la gente prenderà questa roba, la infila immediatamente nella sua macchina. Questo è, sì. Non è una leggenda metropolitana. Quindi il comportamento è utile, cioè ad esempio per aumentare la sicurezza, sembra una banalità, ma addirittura io potrei ad esempio non avere l'antivirus se vado su siti sicuri, tranquilli, che ne so, tutti i giorni sul sito di Radio 24 non mi succede nulla. Se non accetto email e scarico cose strane, il punto principale della sicurezza è che la sicurezza non esiste. Io riduco il rischio, così come non esiste l'elisir di lunga vita. Io ho le cinture di sicurezza, i freni, ho le polizze d'assicurazione, ma non ho la certezza che non avrò un incidente. Però è vero che se io non vado in luoghi pericolosi posso... Assolutamente, se io ho tutta una serie di comportamenti, riduco il rischio praticamente a valori trascurabili. Molto, okay. Fabio da Roma, buongiorno. Salve, buonasera. Salve. Salve, complimenti intanto per la trasmissione e i temi che trattate. Molte grazie. La mia domanda era molto, diciamo, semplice. Per quanto riguarda il discorso degli antivirus, diciamo, io ho una certa confusione nel sceglierne uno, perché su tutte queste riviste ognuno, diciamo, dà la sua opinione, un suo giudizio su questi antivirus, con peculiarità e punti, diciamo, di forza e di debolezza, chiaramente. Allora, con che criterio devo scegliere un antivirus? Questa è una domanda. Pronto? Sì, sì, sì. La seconda è questa. Io, diciamo, ho lavorato un po' come assemblatore nei computer e ne ho viste, insomma, di cotte e di crude. E la domanda è questa: per quanto riguarda i firewall, discorso di firewall, so che esistono dei firewall hardware e dei firewall software. Nelle aziende chiaramente è più indicato il firewall hardware, giusto? Direi proprio di sì. Sì. Ecco, però da quanto ho capito configurarlo è molto problematico, perché, diciamo, richiede una competenza non indifferente. Sì, io direi che in questo caso, quando si parla di sistemi aziendali, è necessario che le cose vengano messe in mano ad un esperto più che alle persone che lavorano in azienda. Che sappia quantomeno cosa fare. Grazie Fabio. Gigi, allora, gli antivirus, questo è un problema importante. Allora, intanto come li scegliamo? Esatto. No? Però innanzitutto dico, noi su internet ci siamo abituati al tutto gratis. Sì. Mentre invece gli antivirus è una di quelle cose dove la stragrande maggioranza dei prodotti sono a pagamento, quindi forse in quel caso ce ne sono anche. Allora, dici la tua. Esatto. Allora, innanzitutto, nel caso degli antivirus vale un principio: la cosa più importante è la costanza dell'aggiornamento, sia da parte di chi lo fornisce che poi da parte di chi lo installa, perché se io prendo anche l'antivirus più fantastico, costoso, iperbolico, ma poi non lo aggiorno o non attivo le funzioni di aggiornamento, diventa assolutamente inutile nell'arco di pochi giorni. Questo l'abbiamo detto anche prima. Prima regola. Seconda regola, ovviamente le grandi organizzazioni, i grandi nomi dei produttori di antivirus, così come nella farmaceutica, le grandi case hanno staff di persone enormi che continuano a investigare, perché è un continuo gioco tra buoni e cattivi, i cattivacci che inventano nuovi virus e i buoni che costruiscono gli antidoti. Quindi in genere una grande organizzazione ha il grande vantaggio di avere risorse economiche, persone e laboratori in grado di rispondere più velocemente possibile a nuove forme virali. Ovviamente ci sono antivirus gratuiti prodotti dalla comunità open source che vanno benissimo. Tipo? Il nome adesso non, ma comunque basta andare su SourceForge, su tutti i siti open source esistono dei signori antivirus che magari non sono così sofisticati come gli altri, ma sono pur sempre degli antivirus che la comunità open source mantiene con risorse non così diciamo strutturate come nel caso di un grande produttore. Dal punto di vista aziendale, secondo me non c'è dubbio, io mi affiderei sicuramente a degli antivirus che abbiano precisi contratti di aggiornamento, eccetera eccetera. Per quanto riguarda il privato, ripeto, rimangono cifre tutto sommato trascurabili se io le commisuro alla rottura di scatole di una macchina che mi si impesta o peggio in cui perdo i dati. Sì. Sentiamo sempre da Roma Adriano, buongiorno Adriano. Buongiorno, vorrei porre due domande gentilmente. Allora, io ho una cosa, sull'iPhone dell'Apple mi hanno detto che non c'è l'antivirus perché dicono che è non attaccabile. E poi anche la seconda domanda, sui Mac, sempre dell'Apple, ma è vero non ci vogliono antivirus perché mi hanno detto che è difficile che vanno i virus, perché tanti negozianti dicono che ci vuole e tanti dicono di no, non so più a chi dà retta, a chi prendere consiglio. Ecco, lo dovrei questa ma cosa. Guardi, grazie Diana, aspetta Gigi. Dunque, ringrazio perché questa mi sembra un po' una leggenda metropolitana. Dividiamo però due cose. Una è sul computer, quindi Mac e PC, anche se in realtà poi andrebbe detto Linux, Mac, quindi Apple e sistema operativo Microsoft, che è insomma il più diffuso. E poi parliamo degli smartphone, che è un altro punto. Allora, Gigi. Allora, innanzitutto, ripeto, non esiste una macchina sicura al 100%. Sì, sì. Non, questo ricordiamolo. Però mi devi rispondere. Sicuro il Mac o sicuro. Il Mac è basato su un sistema operativo che era il vecchio Unix e quindi strutturalmente è congegnato e pensato per impedire l'accesso alle aree di sistema operativo senza che io lo sappia. Per cui se un virus, il cui compito è quello di installarsi di nascosto, cerca di installare qualcosa sulla mia macchina, mi esce, attenzione, c'è un programma che sta installando qualcosa. Se io sono così stupido da dire sì, ma sei certo, guarda che vado a distruggere le cose, dico sì, a quel punto non c'è Mac che tenga, io resto un assoluto idiota. Il fatto vero però è anche che dobbiamo ricordare, soprattutto nel caso della posta elettronica, che se anche la mia macchina non può essere attaccata, se io ricevo una mail con appiccicata un virus, io poi magari questa mail la passo a un altro, non mi infetto io. Per cui una buona raccomandazione, esatto, è anche quella di dire installo un antivirus, esistono gli antivirus per Mac che fanno in modo che io non divenga portatore sano di malattie che appiccico agli altri. Sì, sì. Sì, a me sembra che con un buon comportamento non succeda nulla, perché io ho utilizzato per anni computer senza antivirus, non è mai successo nulla. Certo che la statistica non va fatta sul mio caso. Ecco, gli smartphone. Sì. Per gli smartphone cosa dobbiamo fare? Beh, innanzitutto dobbiamo sapere che non sono dei phone, cioè lo smart, la parte smart è tanto più grande della parte phone. Infatti la gente, io vedevo oggi i ragazzi in treno venendo qui che giocavano, si facevano le foto, facevano di tutto tranne che telefonare. Quegli oggetti sono assolutamente dei computer e sono nella condizione più interessante per chi voglia attaccarli. Li ho sempre con me. E quindi l'ubiquità è la caratteristica che li rende particolarmente vulnerabili e interessanti. Quindi, prima cosa, se non usate Bluetooth, disattivatelo, sì. Perché la gente intorno a voi può accedere al vostro telefonino, può fare cose simpatiche, ma può anche installare un pezzo di software che si mette a fare telefonate in Botswana. Sì. Cioè sì, per modo di dire, perché uno si potrebbe sorprendere. Questo è uno degli attacchi più comuni. Sugli smartphone, tu ritieni sia necessario l'antivirus? Allora, innanzitutto vale quello che ho detto prima. Esistono una serie di comportamenti. Primo, una password. Sono dei computer, hanno delle password. Hanno dei codici di attivazione e spegnimento. Secondo, se non state usando la parte Bluetooth, spegnetela o attivatela solo quando vi serve. Terzo, fate i backup dei telefonini. Fate i backup dei telefonini. Quarto, non scaricate o non aprite file. Sentivo oggi due ragazzi che dicevano: ah, mi ha chiesto l'amicizia uno su Facebook, gliel'ho data. Ma chi è? Non lo so. Ecco, questa è una cosa. Cioè, non c'è... Però apriamo un altro capitolo. Sì, ma è l'atteggiamento che è uguale. Sentiamo Ettore da Modena. Buongiorno, Ettore. Salve, prima di tutto volevo fare complimenti per la trasmissione. Poi volevo chiedere una cosa. Io volevo chiedere, gli antivirus non sono altro che programmi che dentro hanno un codice che leggono quando noi scarichiamo un programma da internet, però io so che ci sono programmi che bypassano questi, bypassano, ci si autonascondono, non tanto all'antivirus, ma al codice che l'antivirus va a leggere. Volevo sapere se questo è vero. Aspetto per radio la risposta. Grazie. Sì. Ah, sì. Noi pensavamo che lei volesse chiederci se Linux è più sicuro, perché avevamo scritto sul monitor questa domanda. Ma però... è un flash. Sì, un virus intanto non ha niente di biologico, è un programma. E l'antivirus è un programma. Gli antivirus sono dei programmi che sono istruiti per riconoscere certe sequenze o certi comportamenti. Ed è ovvio che ci sono continuamente dei sviluppatori di virus che, siccome studiano gli antivirus, adottano tecniche per nascondersi a questi programmi. È una continua lotta, per cui quando si scopre un virus che riesce a bypassare, a passare oltre i controlli dell'antivirus, la cosa viene segnalata e allora ci si inventano. In pratica si parla di signature, di firme, perché ogni virus, o meglio ogni programma, il termine più giusto è malware, perché sono, diciamo, codici dannosi, software che fanno del male, software che dannosi. Fanno dei danni, esatto. Ognuno di questi ha una caratteristica e chi sviluppa antivirus li riconosce e adotta contromisure. Senti, mi dici se è più sicuro Linux rispetto agli altri sistemi operativi? Ci risiamo, io tendo allora uno, se uno è un bravo sistemista è più sicuro perché sa cosa fare. Se uno è un utente domestico rischia di fare disastri, no? Perché a quel punto ci sono talmente tante cose che si possono fare con un sistema straordinario come Linux, che magari lasciare tutte le configurazioni di default permettono a un attaccante esterno di fare cose mirabolanti. È come dire, è più sicura una Ferrari o una 500 col cambio automatico? Attenzione che ti fai molto male se non sai guidare una Ferrari. Dunque, adesso ci fermiamo per qualche minuto, c'è la pubblicità, poi parliamo anche di un tema molto importante di cui si è discusso in settimana in una serie di incontri che ci sono stati in Italia, in modo particolare a Roma. È stato celebrato l'Internet, il Safer Internet Day, organizzato e promosso dall'Unione Europea per una rete più sicura per i minori, per i bambini. Ne riparliamo tra poco. 2024. Non dimenticate la versione podcast del nostro programma, disponibile più tardi sul nostro sito internet, per riascoltare 2024 quando volete, anche a pezzetti, magari sul vostro smartphone o il lettore MP3. Tutte le informazioni sono online su www.radio24.it, naturalmente nella pagina di 2024 oppure ad esempio nella pagina del podcast. Vi dicevo, un tema di cui si sta discutendo da anni, ma sul quale purtroppo è stato fatto ancora poco, è la sicurezza dei minori in rete. Anche da questo punto di vista il comportamento è molto importante, a partire da quello dei genitori. Questa settimana è stato celebrato il Safer Internet Day, promosso dalla Unione Europea. Ne abbiamo parlato dei pericoli che esistono in rete con il presidente di Telefono Azzurro, che è il professor Ernesto Caffo. Da una parte i ragazzi sempre più ci chiamano per situazioni di bullismo di cui sono vittime, in molti casi sono vittime dei loro compagni, e spesso questo bullismo in realtà è un bullismo legato a immagini, a video che vengono raccolti dai coetanei e messi in rete. L'altro grande problema che i ragazzi ci presentano è quello dell'emarginazione nella rete sociale in cui sono entrati, ad esempio l'emarginazione da Facebook, i falsi profili e immagini che molte volte i ragazzi si vedono postate, con ovviamente componenti della loro privacy violate. L'altro aspetto che invece emerge molte volte, e questo più dagli adulti, è l'accesso invece dei bambini in siti impropri, soprattutto in siti pornografici. E dall'altra parte invece l'altro grande problema è quello legato invece alla presenza nella rete, e questa associazione che fanno spesso i ragazzi, di siti con contenuti violenti, razzisti o talvolta a sostegno di comportamenti impropri, comportamenti suicidari o comportamenti legati ai disturbi alimentari, soprattutto nell'ambito dell'anoressia. Questo come un quadro che i ragazzi ci presentano, e devo dire che i ragazzi sono molto presenti su queste segnalazioni, molto meno gli adulti, se non attraverso segnalazioni che i ragazzi fanno agli adulti e gli adulti riferiscono a noi. Infatti questo è uno dei problemi, cioè l'incapacità dei genitori e degli adulti in generale di comprendere questi fenomeni in rete. Che cosa è necessario e che cosa si può fare per far sì che i genitori in primis, ma tutto il mondo degli adulti, si accorga di quello che lei ci ha descritto? Perché spesso molti dicono: no, ma queste sono cose molto rare. Ma da una parte i genitori ritengono che l'avere i ragazzi un profilo su Facebook, avere i loro contatti sul social network, rappresenti un dato marginale nella vita sociale dei ragazzi oggi, e spesso non si rendono conto dei rischi possibili, e d'altra parte hanno paura di entrare a contatto con questi profili che i loro figli hanno, come se avessero la paura di violare la loro privacy, di violare in qualche modo il loro diario personale. In realtà dimenticano che quel profilo, che quell'attività sociale è diffusa nella rete, a contatto con centinaia di persone. I ragazzi spesso hanno un numero infinito di amici, anzi più amici si hanno più si è popolari, e d'altra parte per attirare gli amici spesso si mettono delle proprie immagini, e tutto questo ovviamente i genitori non lo sanno. Non sanno che la rete ha una funzione sociale, e quella è che i ragazzi privilegiano in assoluto, perché si condividono insieme i compiti in classe piuttosto che non le valutazioni su un proprio compagno, o quando vedersi in una parte della città senza usare il telefono. Questo sicuramente è un processo che i ragazzi hanno sempre più utilizzato, di usare i social network, che invece i genitori non hanno compreso, né per la loro positività né per i rischi che questo può comportare. Senta, la scuola può, immagino, fare qualche cosa, ma lo sta facendo? La scuola si muove con enorme ritardo, perché da una parte non è riuscita a intercettare prima questo fenomeno, ha degli strumenti tecnologici impropri, inadeguati. Gli insegnanti non sono stati aggiornati su queste tematiche, se non pochi, coloro che fanno soprattutto attività di tecnica piuttosto che non le lezioni di informatica. E devo dire, questo in preparazione degli insegnanti ha portato l'esistenza della scuola a mettersi in gioco su questi temi. All'inizio evitando l'uso di cellulari nella classe, ma in realtà superata dalla realtà dei fatti in cui tutti i ragazzi hanno oggi strumenti, smartphone e tablet in classe stessa, e oggi i ragazzi usano le nuove tecnologie spesso in competizione con la scuola, anche perché se la scuola non è attrattiva, i ragazzi vedono in questi strumenti un'opportunità in più di contatto. Questo fa sì che oggi il momento educativo non è più un momento in cui c'è un rapporto tra ragazzi insegnante, ma un rapporto tra ragazzi, tra di loro, e una figura di riferimento che è spesso di controllo e non è di guida educativa. Credo che questo sia un grande limite, anche perché un insegnante che poi non riesce a intercettare i bisogni dei ragazzi non è neanche un insegnante che i ragazzi stimano e apprezzano, e questo limita moltissimo anche il processo oggi di sviluppo della scuola. Quindi credo che c'è da fare moltissimo perché la scuola possa correre in qualche modo incontro ai ragazzi. Alcune delle cose che capitano in rete sono anche dei reati. Da questo punto di vista, il quadro regolamentare è completo e quindi magari manca la capacità poi di intervenire concretamente, o addirittura siamo ancora in un mondo in cui mancano proprio le leggi? No, le leggi ci sono per quanto riguarda i reati più gravi, cioè la pedopornografia. E sicuramente oggi un reato che può essere perseguito anche sulla detenzione di materiale pedopornografico proprio ai computer. Però questo è un aspetto ancora marginale, perché tutta l'attività invece che si fa nel social network di grooming, quindi di adescamento, non è ancora perseguita. La questione di Lanzarote deve essere ancora attuata nel nostro paese. Tutta l'attività di scambio di materiale, di file sharing che viene tra ragazzi, molte volte non è in nessun modo perseguita e controllata. Diciamo che gli strumenti legislativi vanno aggiornati e soprattutto vanno potenziate tutte le agenzie che possono poi fare indagini su questo versante, l'intelligence che deve essere quella poi di poter individuare quei network sociali che spesso in modo improprio usano questo tipo di materiale, e sono network utilizzati spesso da giovani adulti e da ragazzi. E questo aspetto ci porta a dire che il tema oggi della pedofilia non è più qualcosa che va nei vecchi siti commerciali, quanto invece è molto più diffusa anche tra ragazzi. Per cui questo aspetto va controllato anche con misure repressive, ma devo dire queste purtroppo sono ancora lontane da essere attuate. C'è un altro, e così concludiamo il quadro, un altro protagonista, che è l'industria. Che può fare? Però naturalmente l'industria guarda prevalentemente al business. Da questo punto di vista qual è il vostro, la vostra opinione? Ma che c'è da fare? Il nostro paese è un grande sforzo, perché l'industria, come in altri paesi, assume le proprie responsabilità. Oggi ha fatto mercato sull'infanzia, sugli adolescenti, perché sono dei consumatori eccezionali di nuove tecnologie, dimenticando molte volte quella che è l'etica, molte volte anche di un commercio che deve pensare al proprio consumatore. Per cui si sono fatti i contratti di cellulari con i bambini, facendo sì che siano i genitori a farli, si sono permessi gli accessi su Facebook di bambini inferiori ai 13 anni, tutta una serie di regole che in qualche modo dovrebbero essere rispettate, sono state superate dal mercato. Io credo che oggi dobbiamo, soprattutto associazioni, istituzioni, costringere in qualche modo il mondo aziendale a assumersi le proprie responsabilità. Come succede all'estero, io vedo in Inghilterra la pressione della comunità ha portato le aziende a investire molto di più nel controllo delle proprie reti, nella formazione dei ragazzi, nella formazione dei genitori, con investimenti significativi affidati talvolta alla pubblica amministrazione, come ad esempio il mondo della scuola. Da noi questo non è avvenuto, da noi si è soprattutto utilizzato il mercato, che è stato sicuramente molto ricco, per fare sviluppo di attività di business, dimenticando che le conseguenze poi oggi le paghiamo tutti, perché dei ragazzi accompagnati poco nel loro percorso di crescita sono anche dei pessimi consumatori. Gigi, dai agli ascoltatori, dacci insomma qualche consiglio per far sì che la navigazione dei ragazzi, dei più piccoli soprattutto, sia sicura. Allora, innanzitutto immagino insomma, i genitori dovrebbero occuparsi di più di internet e capirci qualche cosa. Questa è la regola numero uno. A me fa sempre piacere ricordare agli ascoltatori che l'Italia è stato il primo paese al mondo che ha adottato una carta dei diritti dei bambini in rete. Lo facemmo nel 96 a Desenzano e fu il primo documento al mondo che diceva bisogna occuparsi di tutela dei minori prima che sia tardi, prima che diventi un problema, dicendo due cose. Uno, che la rete appartiene ai nostri figli, perché la rete è il futuro, quindi i bambini hanno diritto di accedere. Secondo, che hanno diritto di avere attorno a sé adulti responsabili. Letta al contrario, è un dovere per un insegnante, per un sindaco, per un genitore tutelare i bambini. Quindi non è una scelta, è un dovere, perché i bambini ne hanno diritto. E quindi quelli che dicono ma mio figlio è su in camera col computer, non so cosa sta facendo, questa è una cosa assoluta ad esempio, da evitare. Un consiglio potrebbe essere quello, mettete il computer in salotto, ma visibile usate, a tutti. Fatelo assieme, cioè guardate così come guardate cosa mangia, guardate cosa legge, guardate con chi esce. Il computer non è una zona franca e questo vale soprattutto addirittura per i luoghi pubblici, le scuole, le biblioteche, in quello che abbiamo detto in Europa, devono diventare luoghi tutelati, protetti. Esatto, questo è importante. Il Comune di Milano che sta facendo questa, cito il Comune di Milano perché mi viene in mente, anche perché c'è stata in settimana una notizia relativa a questo, sta facendo un'opera di diffusione della rete Wi-Fi e giustamente, ripeto giustamente, ha previsto una serie di regole per filtrare certi siti. Poi, assolutamente. Poi diciamo che l'Arcigay si è arrabbiata perché era finita tra le parole chiave anche quella parola, però poi le cose si vanno sistemando, però è importante che le pubbliche amministrazioni, visto che adesso va molto certo. Di moda fare il Wi-Fi pubblico, prevedano anche questo, perché poi scopriamo che magari i ragazzini vanno al parco per vedere certi siti, eccetera, eccetera. Assolutamente. Dunque, in questo abbiamo detto che devono essere coinvolti i genitori, soprattutto le istituzioni, come abbiamo detto, ma anche le aziende. E infatti il professor Caffo ci diceva, insomma, cerchiamo anche di fare pressione sulle aziende perché facciano qualche cosa in più per proteggere i minori. Anche di questo abbiamo parlato con Valerio Neri, che è direttore generale di Save the Children, che ha presentato sempre in settimana un comitato consultivo del Centro Minori Online. Secondo noi i tre elementi fondamentali sono proprio questi. Le istituzioni, e gli chiediamo chiaro e tondo di inserire la normativa a favore di un internet sicuro in tutti i luoghi in cui va inserita. Faccio un esempio, si parla adesso di agenda digitale italiana, i 5 ministri faranno una cabina di regia, dovranno digitalizzare l'Italia, il 40% degli italiani non usa internet, bisogna far sì che come modello europeo si arrivi al 70-80%, il ministro Profumo dice portiamo internet in tutte le scuole, noi diciamo benissimo. Ma però vi ricordate che portare internet in luoghi dove né professori né ragazzi sanno i pericoli significa esporre di più ai pericoli? Quindi inseriamo nell'agenda anche delle opportune attenzioni. Le aziende fanno miliardi su questi sistemi e su questi prodotti. E allora non possiamo chiedere alle aziende di investire lo 0,01% di tutto ciò che guadagnano con questi sistemi per la protezione dei loro clienti più esposti, i bambini, i ragazzi, gli adolescenti? Possiamo chiedere loro di mettere degli allarmi quando certe cose succedono? Facili! Per esempio, quasi tutte le aziende hanno fatto una cosa encomiabile, brava, però che serve relativamente poco. Cioè hanno fatto dei siti ad hoc dove spiegano, raccontano. Spiegano. Ma adesso io sfiderei, ti do del tu, sì. Sfiderei che tu mi porti qui un ragazzo di 14 anni che è andato Chiaro. Su quei sinci, ma che me ne frega a me, dicono i ragazzi. Loro vanno a chattare con gli amici loro, no? Non vanno sui siti che l'azienda ha preconfezionato per la pubblicità e per farsi bella. Quindi fare delle aziende sul serio, non a chiacchiere. Io vorrei vedere quando entro in Facebook immediatamente accendersi un'attenzione, stai attento ai dati che metti sul tuo profilo. Vorrei un Facebook dove se ti fregano il profilo, parla una persona esperta perché a me hanno fatto falso il mio profilo, va bene? Io per riuscire a oscurare quel profilo mi sono dovuto rivolgere alla polizia postale. ho dovuto fare una denuncia, avevo scritto 3-4 volte a Facebook e ovviamente nessuno gliene è portato nulla. Perché dico questo? Perché il furto di identità è una delle cose tipiche che usa il pedofilo per agganciare il ragazzino in rete. Allora, caro Facebook, invece di farmi tante cose, potresti, per esempio, di fronte a una denuncia che ti dice il mio profilo è falso, agire più rapidamente? Basterebbe questo. Quindi alle aziende chiediamo fatti, non solo principi, bellissimi siti inutili, fatti che aiutano tutti i giorni i ragazzini ad essere più sicuri. Alla scuola chiediamo insegnanti capaci di dire quello che semplicemente sto dicendo adesso io in una classe di ragazzi e fare delle esercitazioni. Aiutare i ragazzi a diventare loro per primi consapevoli del modo di evitare le trappole. Verrebbe da dire, fino ad oggi non è stato fatto nulla. No, verrebbe da dire che solo 7 anni fa, quando facemmo il primo Safer Internet Day in Italia, eravamo veramente a zero. Adesso quei siti che io ho poc'anzi criticato sono stati pur fatti. Quindi almeno qualcosa, esatto, è stato fatto, almeno, cioè, qualcosa è stato fatto. Noi vogliamo sempre fare qualcosa in più, ovviamente. Visto che stiamo parlando di una giornata, o comunque diciamo di un tema che viene discusso in tutta Europa, e tra l'altro l'Unione Europea, la Commissione Europea è molto attiva su questo fronte, ci sono dei paesi o delle esperienze interessanti o grosso modo siamo tutti allo stesso punto di partenza? No, da un punto di vista legislativo e di informazione al pubblico, genitori e ragazzi, ci sono grandi differenze, perché lì dove un paese, prendi la Danimarca, prendi la Germania, la Francia, l'Inghilterra, dove c'è molto più internet nelle scuole, è ovvio che gli insegnanti si sono dovuti prestare prima dei nostri a essere pari ai loro ragazzi. Quindi come informazione generale ci sono paesi che stanno decisamente meglio di noi. Sotto il profilo legislativo anche, perché quasi tutti i paesi hanno recepito una convenzione che si chiama di Lanzarote, il paese, sì, in cui è stata firmata. Non l'abbiamo ancora fatto. E noi non l'abbiamo ancora fatto, e lì dentro c'è un sacco di roba importantissima. Quindi direi, se dovessi dare una graduatoria, direi che l'Italia rispetto agli altri paesi europei sta a 6 più, ecco, come dire, appena sopra la sufficienza, però almeno siamo sufficienti. Sentiamo Gianmaria che ci telefona da Firenze. Buongiorno Gianmaria. Sì, buongiorno. Io volevo tornare un attimino alla discussione sugli antivirus e volevo fare una piccola dietrologia, capire se poteva essere veritiera, e che i produttori di antivirus potrebbero anche essere in un mercato parallelo produttori di virus per alimentare il mercato stesso. Grazie. Grazie Gianmaria per averci chiamato e naturalmente grazie anche a tutte le altre persone che ci stanno chiamando al nostro numero verde 800 24 00 24. Gigi, pensaci, adesso c'è la viabilità, sentiamo tutti il caos, sì, sì, che c'è in Italia in questi giorni di neve, ne riparliamo tra un minuto. 2024, l'ultimo slot di 2024, oggi con noi c'è Paolo Corleone che si occupa della parte tecnica. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, dove alcuni ascoltatori ci consigliano anche degli antivirus gratuiti, poi magari si possono pagare anche alcune decine di euro all'anno per avere un prodotto magari con più caratteristiche, però citiamoli questi, ad esempio Avast lo uso anche io su alcuni computer, quindi poi c'è anche Avira che ci viene indicato, e comunque potete visitare la nostra pagina Facebook cercando 2024 e magari fare anche I like. Dunque, è una leggenda metropolitana o c'è qualche cosa di vero su questa possibilità che i produttori di antivirus qualche virus in giro lo mettano? Ma intanto non solo è una leggenda metropolitana, ma è proprio falso. In realtà c'è una ragione semplice, che per la teoria che la mamma dei cretini è sempre incinta, ci sono così tanti produttori di virus, dal ragazzino alle bande criminali, cioè, do un dato, pubblicheremo proprio come Clusit a marzo, qui a Milano c'è il Security Summit, e pubblicheremo il primo rapporto completo italiano sulla sicurezza. Io ovviamente ho 2 pagine in anticipazione che credo che faccia piacere a 2024. Beh, nel 2011 rispetto al 2010 il mercato del cybercrime è cresciuto del 250%. Quindi la gente dice, ma perché i virus? Per soldi. Per soldi. Cioè i cybercriminali che cosa stanno guadagnando? Fanno? 7 miliardi di dollari. Rubandoli dove? Rubandoli a chi dal telefonino si ritrova che sta telefonando a un numero in Zimbabwe, in Liechtenstein, quei numeri in realtà ad accumulo, sì, piuttosto che rivendendosi dati, indirizzi e nomi alle società che poi li usano per fare promozione e spazio. A quelli che fanno, esiste il pizzo informatico, per cui ti arriva un giorno una telefonata di qualcuno e dice, se non mi dai tot, io domani ti blocco il sito, e a quel punto uno prova a dire, ma no, è uno scherzo, poi si ritrova che la sua macchina non è accedibile, che il suo server di posta è inaccessibile, e questi sono fatti veri accaduti. Senti, tu ci credi all'ipotesi addirittura di una guerra digitale? Allora, sappiamo che all'interno del cybercrime ci sono anche alcuni stati che stanno finanziando team di sviluppo di malware o comunque team di persone che accedono a dati aziendali e quindi sono alla caccia di proprietà intellettuale. Però da qui questo è il fenomeno, insomma, criminalità digitale, sì, e le polizie del mondo, insomma, si sono attrezzate. Però se uno legge, io leggo, mi diverto molto a leggere tutte le notizie riguardo alla sicurezza, soprattutto negli Stati Uniti, dove c'è più trasparenza da questo punto di vista, e il Cyber Command del Pentagono si è preoccupato ma lavora molto. Assolutamente sì, noi dobbiamo sapere, intanto giusto perché non si parli solo d'America, vorrei ricordare agli ascoltatori che l'Italia, gli studenti italiani sono stati per 3 anni campioni mondiali di hacking, hanno battuto le altre università, cioè quelli più bravi, Politecnico di Milano e Politecnico di Torino, per 3 anni sono stati campioni mondiali di cyber security. Questo perché si pensa sempre appunto che noi siamo da terzo mondo, perché c'è intelligenza, c'è estro, c'è qualità. È ovvio che così come esiste lo spionaggio. Scusa, quando è successo questo? Abbiamo un team qui all'università, sponsorizzato anche da noi, proprio qui al Politecnico di Milano, che è straordinario. E questo fa ben. Quando dicono mai in Italia non ci sono le risorse, no? In Italia le risorse ci sono. Dicevo che così come esistono le spie e i paesi si spiano, provate solo a immaginare cosa sia la guerra elettronica in Israele piuttosto che in Iran, il trafugamento dei segreti atomici, piuttosto che una notizia interessante è che per un certo periodo sono state usate le PlayStation, che vi ricordo anche quelli non sono giocattoli, sono computer straordinariamente potenti, e mettere in batteria un centinaio di PlayStation consentiva di fare ricerca in Iran sulle centrali atomiche. Questo per dire come ci sia questo continuo utilizzo di tutte le forme di tecnologia, da una parte per attaccare, dall'altra per difendersi. Pensiamo a cosa è stato l'attacco in Estonia, si dice perché i russi non avevano digerito lo spostamento della statua del Milite Ignoto. Prima di tutti gli attacchi militari tradizionali ci sono forti attacchi cibernetici. Quindi tu dici queste cose stanno avvenendo in grande assolutamente quantità. Assolutamente sì, e in grande quantità. Senti, ma le aziende italiane, poi ti chiedo, sì, delle istituzioni, però abbiamo un paio di minuti, se ne stanno accorgendo? Perché ho il dubbio che a volte le aziende siano attaccate, venga rubata proprietà intellettuale, progetti eccetera eccetera, ma magari uno non se ne accorge, così come una casa potrebbe essere attaccato, il suo computer potrebbe essere utilizzato per fare degli attacchi, che ne so, anche ieri al sito, certo, della CIA, ma non se ne è accorto. Allora, la consapevolezza da questo punto di vista? Allora, io ho in sorte, non è neanche una fortuna, insomma, io sono in questo mercato da 35 anni, quindi ho visto tutto il film, okay? Sì. Quando c'era il cinema muto, adesso al 3D. Sì. Devo dire che le cose sono molto molto migliorate. Io non credo che oggi ci siano problemi di consapevolezza in tutte le grandi aziende. Tutte le grandi aziende stanno lavorando. Il problema è che in Italia, ricordo, esistono 4 milioni di aziende e quelle con più di 250 addetti sono solo 3.000. Vuol dire che ci sono 3.900.000 di aziende, di idraulici, artigiani, professionisti, piccole manifatture, che vivranno grazie alla rete, che possono competere grazie alla rete e che devono pensare alla sicurezza esattamente come la fa la Fiat, come la fa l'Ansaldo, come la fa l'Agip, eccetera. Questo è il problema, è il fatto che la sicurezza, la protezione dei nostri sistemi informativi, siccome la nostra vita riguarda tutti. No, tu sei fermato subito, io ho fatto segno, dice stringere, tu sei fermato subito. Io Gigi, sono pronto. Io ringrazio Gigi Tagliapietra per essere stato con noi, che è il presidente del CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Parleremo nuovamente di queste cose, magari tu mi consiglierai qualcuno di quelli che hanno vinto questi premi, da invitare in trasmissione. Ringrazio anche tutta Paolo gente Corleoni. Straordinaria. Li chiamiamo. Ringrazio Paolo Corleoni che si è occupato della parte tecnica, anche la nostra preziosa redazione, in primis Anita Panizza. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e tra poco sarà disponibile la versione podcast della nostra trasmissione. Torniamo la prossima settimana in diretta dalla BIT di Milano, Fiera Internazionale del Turismo. Saremo lì per parlare naturalmente di turismo e di turista digitale. 2024.